stupore, e a te volo co pensiero, niente voglio, niente spero, ca tenerte sempre a fianco a me. Si sicura chi sto amore, sta contenta, io non penso che a te sola, nul pensiero me consola, ca tu piense sulla menta a me. Ah, più belle tutte belle,